È stato processato nel 1947 e condannato a morte per crimini di guerra. La pena è stata commutata in ergastolo. Rimesso in libertà nel 1952 per gravissimi motivi di salute, è tornato in Germania, dove è stato accolto da eroe dai circoli neonazisti bavaresi, con cui ha collaborato attivamente fino alla sua morte nel 1960. Pietro Caruso è stato processato il 20 settembre del 1944 da un tribunale civile che lo ha condannato a morte. Prima di essere giustiziato, il giorno stesso al plotone di esecuzione ha detto: «Mirate bene». Erich Priebke è stato scovato nel 1994 a Bariloche, in Argentina, dove viveva indisturbato. Estradato in Italia e processato a Roma, è stato riconosciuto colpevole della morte delle 5 persone in più portate per errore alle Fosse Ardeatine. Secondo Priebke, si trattava di pericolosi testimoni oculari da eliminare. Nel 1997 è stato condannato all'ergastolo. Erich Priebke muore l'11 ottobre scorso nella sua casa romana all'età di 100 anni. Priebke non ha mai rinnegato il suo passato né accennato ad alcun pentimento. Secondo il suo legale, Paolo Giachini, Priebke avrebbe lasciato un'intervista scritta e un video come testamento umano e politico. Queste le parole del presidente della comunità ebraica, Riccardo Pacifici. Che rimane l'amaro del fatto che c'è stato un uomo che nemmeno nella tarda età, nella età, tra virgolette, matura, nella età della ragione, nella età, diciamo, anche della maturità, ha sentito mai l'esigenza non solo di pentirsi di un'azione criminale commessa sul territorio italiano con la morte dei 335, ma non si è mai pentito di aver aderito non alla Wehrmacht ma all'SS, soprattutto non si è mai neanche pentito di aver aderito al Partito Nazionale Nazista, quindi è rimasto convinto fino all'ultimo respiro di ciò che ha fatto. Una figura della quale, a mio avviso, non c'è né da gioire né da dover piangere, anche perché in nessuno dei casi ci darebbe mai, porterebbe mai in vita quelle 335 vittime. Basta di immaginare questa come una partita, tra virgolette, tra i criminali nazisti, in questo caso Erich Priebke, e la comunità ebraica o il mondo ebraico. Alle Fosse Ardeatine sono morti 335 uomini che erano lo spaccato della società civile di allora, di ogni religione, di ogni convinzione politica, oppositori, carabinieri, prelati, un pappagallo mi viene in mente fra tutti, soldati, gente presa per la strada, così, ragazzi. Allora, è stata una violenza fatta alla città di Roma e non solo alla comunità. Spero che ci siano quei 335 angeli, così li voglio definire, le vittime delle Fosse Ardeatine, che lo attenderanno nell'aldilà e credo che sapranno loro come doverlo dare per la vita eterna. Mix 24, la storia. Fiamma Nierenstein, giornalista, saggista, ex vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Ecco, Fiamma, Priebke ha negato fino all'ultimo l'Olocausto, una follia assoluta. Ma questo per te ha un rapporto con la sua sepoltura? Ha un rapporto con la pietà che si deve sentire nei confronti di quest'uomo che è pari a zero, perché il fatto che abbia seguitato tutta la vita a negare l'Olocausto vuol dire che ha negato le sue responsabilità, ecco. Così come il fatto che ha seguitato tutta la vita a dire che lui semplicemente ubbidiva, era come un tirarsi da parte rispetto agli orrori che ha compiuto lui. Ecco, stesso. Ma può esistere una forma di pietas privata, ovviamente non pubblica, che consente a qualcuno di seppellirlo senza per questo sentirsi un complice del nazismo o dell'Olocausto? Certamente sì, naturalmente, tutte le forme private sono consentite, se lo vogliono portare al cimitero di Pomezia e seppellirlo con gli altri 27.000 soldati tedeschi non ci vedo niente di male che lo facciano. Tu scrivi nel tuo articolo testualmente che conservi la tua pietas per categorie che non comprendono terroristi, nazisti e gli assassini ideologici. Ecco, non sono delle categorie difficili da definire? No, niente affatto. Per me è facilissimo definirle. Vedo molto chiaramente le linee di delimitazione che la storia e anche la situazione attuale pongono nel mondo e penso che appunto che sia dovere di ciascuno di noi prendere una posizione anche morale. La mia sarà una posizione un po' ingenua, però è quello che sento. Sì. Senti, ma perché dovrebbe far sentire meglio negare il funerale. No, è negare il funerale pubblico, se poi la sua famiglia se lo vuol portare appunto a seppellirlo da qualche parte, quello è il suo diritto, come, certo. Come dicevo prima, deve fare sentire meglio, perché si tratta, negando il funerale pubblico, di negare un valore, esistono i valori nella nostra vita e nella nostra storia, alla sua esperienza di vita che è stata la peggiore possibile. Ecco, però seppellire non vuol certo dire perdonare in nessun modo, perché non c'è nulla da perdonare, come tutti pensiamo e come tu stai dicendo, ovviamente, ma dimostrare in qualche modo però la superiorità di secoli di umanesimo, per quanto naturalmente sia stato travagliato e spesso tradito. Non è così anche? Guarda, Giovanni, la superiorità la si dimostra vincendo, e quindi, diciamo così, la vittoria deve essere innanzitutto morale, naturalmente, però ci deve essere anche una presa di posizione che abbia un carattere storico rispetto a quanto è accaduto, e quindi diciamo così, il rifiuto deve essere dimostrato, il rifiuto non può essere soltanto proclamato, ci sono degli eventi, ci sono delle cose che hanno un carattere di concretezza nella nostra storia, e io credo che le prese di posizione pubbliche dei cittadini abbiano sempre un valore dirimente. Ecco Fiamma, l'ebraismo, se non sbaglio, prescrive una sepoltura il più rapida possibile, pensando alla resurrezione. È una cosa che vale per tutti? Sì, vale per tutti. Io penso che la sepoltura, se era rapida e silenziosa, quella sarebbe stata la cosa migliore di tutti, effettivamente, ma non è stato così. C'è stata una rivendicazione da parte dei suoi amici, che infatti non desiderano altro che avere un momento pubblico in cui vanno a inneggiare alla svastica, al nazismo, all'omicidio, alla tortura, perché vede, Priebke non è stato un delinquente qualunque. Priebke è uno che, se si va a guardare la sua biografia, come io ho fatto in questi giorni, è stato un torturatore, è stato un fanatico, è stato un assatanato. È stato un personaggio che va giudicato per quello che era, senza sconti. Certamente. Ecco, volevo farti un'ultima domanda, Fiamma. Tu, nelle cose che hai scritto, dici che il nazismo non ha a che fare con la banalità del male. Ecco, esattamente che cosa vuoi dire? Intendo dire che il male non è affatto banale. Io, te, alcune centinaia di migliaia e milioni di persone che popolano questo nostro mondo non avrebbero mai fatto, neanche se gli fosse stato ordinato, le cose che ha fatto Priebke, che si sarebbero sottratti, avrebbero pagato con la vita. Le scelte di fare il male sono scelte personali molto determinate, molto forti e molto ben definite. Il terrorismo, il fascismo, il nazismo, l'estremismo islamico, il comunismo, sono state tutte ideologie che hanno portato a un fanatismo che incarnava il male. Credo profondamente in questo e credo che appunto che bisogna smetterla con questa storia che tutti possiamo compiere il male. Non è così, alcuni possono e altri no. Cioè, cosa vuol dire alcuni possono? Alcuni ce l'hanno dentro, alcuni hanno la possibilità di compiere il male se gli viene, per così dire, ordinato, o se un'ideologia dominante gli sconvolge il cervello. Altri invece mantengono una bussola, mantengono un senso di se stesso e sanno che qual è il comportamento che deve essere seguito, e non si piegherebbero mai a fare le cose che ha fatto Priebke o chiunque altro di quel genere lì. Ecco, sì, certo, ma non ubbidire agli ordini in casi in cui può anche costarti la vita richiede anche un atteggiamento eroico, si potrebbe dire quasi santo, non è detto che sia obbligatorio averlo, no? No, però per esempio ci potrebbe anche essere, ci sono state nella storia delle dimostrazioni del tentativo di farsi da una parte. Per esempio ci sono invece delle situazioni come quelle della storia di Priebke in cui i personaggi in questione si mettono in prima linea proprio per avere una possibilità di esercitare la loro tendenza al male in maniera ancora più spudorata e più vasta. Così ha fatto Priebke. Priebke non solo ha esagerato nel numero delle persone che dovevano essere condotte al macello, alle fosse ardeatine, sì, ma quello veramente non l'ha deciso lui. Il rastrellamento sì, il numero delle vittime, quello è stato molto complicato, l'abbiamo raccontato nella storia precedente, ma comunque non toglie niente, questo per il dettaglio della storia, insomma, del rastrellamento sì, invece ne parleremo domani, infatti. Grazie Fiamma, ti ringrazio molto. Niente, grazie mille, arrivederci.